Episodio 2. 17. Ascolta l'intervista. Senti, Caterina, io non so neanche quanti anni hai. 20 compiuti un mese fa, primo dicembre. Ok. E che cosa studi? Lingue e culture straniere. Sono al secondo anno. Università. Senti, sì. Cosa ti ha portato a scegliere, diciamo, questa facoltà? Ma diciamo che già dalle scuole medie ho avuto sempre molto interesse per le lingue. Studiavo inglese ed ero appassionatissima. Poi ho iniziato a fare delle vacanze studio all'estero, quindi a conoscere anche realtà culturali diverse, e questo mi ha portato a scegliere una facoltà che mi permetta un domani di lavorare in un ambito interlinguistico, ma soprattutto interculturale. E quando tu pensi al tuo futuro professionale, dove ti immagini, come, diciamo, dove vorresti lavorare, cosa ti piacerebbe fare con... Ma non ho un'idea molto precisa di una professione ben definita, sicuramente qualcosa che comporti il viaggio e il contatto con il pubblico. Per esempio? Quindi, mi piacerebbe molto lavorare nell'ambito delle pubbliche relazioni, per esempio per un'azienda, per qualunque cosa che mi permetta soprattutto di spostarmi e di parlare le lingue. Quindi tu, per esempio, ti immagini a lavorare in un altro paese? Sì, quello mi piacerebbe molto, fare un'esperienza di vita proprio in un altro paese anche di qualche anno sarebbe bello, sì. E che paese, hai pensato a qualche paese in particolare? Beh, io nel cuore ho la Francia, quindi Parigi sarebbe il mio sogno, però perché? È proprio un amore irrazionale e totale che da quest'estate sono stata un mese a Parigi e mi è scattata proprio il colpo di fulmine. Non è quindi... partito da conoscenze letterarie o personali? Ma un po' sì, però diciamo che è proprio la realtà della città di Parigi che mi ha colpito così tanto. Avevo sicuramente già nel mio immaginario un'idea bella, eccetera, però a Parigi proprio è stato un impatto molto emozionante. Senti, tu vivi da sola da poco tempo. Cosa ti ha portato ad uscire di casa? Perché tu, fai l'università nella stessa città in cui sono i tuoi genitori e la tua famiglia, e normalmente la maggior parte delle persone resta in casa durante lo studio, almeno se vive nella stessa città. Quando hai deciso di andare a vivere da sola e perché? Innanzitutto è un progetto che ho già da un po' di anni, nel senso che io, a differenza magari di altri ragazzi nella situazione che tu hai descritto, lavoro in maniera sempre, diciamo, part time, eccetera. Già da quando ho 14-15 anni ho cominciato a fare i primi lavoretti. Che cosa? Ho iniziato con babysitter, segretaria part time, lettrice per la casa editrice Mondadori Ragazzi e così via. Piccole cose, anche collaborazioni sporadiche che mi permettevano, non dico un'autonomia completa, ma parziale. Piano piano queste attività si sono incrementate e proprio per un desiderio mio di indipendenza, di libertà, ho deciso di provare a fare questa esperienza. E ne sei felice? Sì, ne sono molto felice, è 4 mesi che vivo sola e ogni giorno sono sempre più felice. E sei anche invidiata, immagino, da molti tuoi coetanei. Sì, ma non del tutto, perché ci sono poi degli aspetti di difficoltà e di fatica che vengono sottovalutati quando si lascia la casa da ragazzi. Per esempio? Beh, per esempio ci sono cose nella gestione domestica di cui non ci si rende conto finché si vive con i genitori: il cambio delle lenzuola, stirare, cucinare, fare la spesa, lavare i bagni. In realtà toglie moltissimo tempo e moltissima energia. Cose che tu prima non facevi in casa, mi rendo Ma conto. Facevo in maniera sicuramente diversa, magari davo una mano, però ovviamente adesso se lascio un bicchiere sul tavolo lo ritrovo e questo mi stupisce ogni volta.